L'ho vista ridere, piangere, morirmi tra le braccia. Ho visto serpi sabbia uscirle dalla faccia, puntarmi il dito contro come fosse una minaccia e poi sparare da quegli indici di ascolto come un pubblico che guarda. Adesso pensami mentre ti sogno. Dopo quello che mi hai fatto penso ancora a te, di me che mi vergogno. Mi hai lasciato appeso in alto come il sole a mezzogiorno, ma ero appeso nello spazio a mezzo metro da quel forno. Ora ci penso su, su. Sparare zero, sparare a zero come hai fatto tu. Valere meno, essere mero come hai fatto tu. Prendere il cielo e poi da nero diventare blu. E prendere anche te pure quell'altro. Sapessi come farlo, mi strapperei il cuore per mostrarlo. Sono l'esempio di com'ero e con quello che ho fatto ho preso il vero dalla merda e l'ho rimesso in alto. E non mi devi dire più che fare. E non mi devi dire più che fare. E non mi devi dire più che fare, no. Io ci penso da me, e non mi devi dire più che fare, e non mi devi dire più che fare, e non mi devi dire più che fare, no. Io ci penso da me. Ho visto ridere, piangere, morirmi tra le braccia. Dopo ho visto quante lame infame nascondeva in tasca. Merda. Sputare in faccia prima che al piatto dove si mangia. E stare comodo di pancia sopra i miei cuscini d'ansia. Il primo che abbraccia se serve, che non aspetta il verde. Quanto corso, il fiato corto come Messner. Podcast e danno tabasco, pomodoro, Worcester. Due proiettili, Winchester, ghiaccio e serve. Stellerte, ho la maglia con la fascia e gli scarpini all'inferno. Era il mio grande sogno già quando ero pischello. Prima avevo solo la mia borsa, all'interno c'era solo un quaderno, le cartine e un coltello. Vai bello, il cavallo chiude ad L è un castello. Fumiamo più di tutto il cartello. Frate, se mi fermo a pensare nella testa un macello, chiodo schiaccia, chiodo martello, martello. E non mi devi dire più che fare. E non mi devi dire più che fare. E non mi devi dire più che fare, no. Io ci penso da me. E non mi devi dire più che fare. E non mi devi dire più che fare.